Salve amici di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 21 di A tavola con Fabiola. La ricetta di oggi è frittata senza uova alle erbette selvatiche. Ingredienti per 4 persone: un cespo di erbette selvatiche, 4 patate medie, un peperone rosso, un peperoncino fresco, uno spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva, sale quanto basta. Preparazione: far bollire in una pentola a pressione le patate con la loro buccia. Nel frattempo, sbollentare le erbette selvatiche in acqua salata, dopodiché tagliatele con una forbice. Tagliate il peperone rosso a dadini e il peperoncino a pezzetti. Quando le patate sono cotte, sbucciatele e tagliatele a spicchi. In una padella scaldate un filo d'olio e soffriggete lo spicchio d'aglio con il peperoncino. Quindi aggiungete le erbette e il peperone. Dopo aver mescolato, unite anche gli spicchi di patata. Aggiustate di sale e schiacciate le patate con una forchetta. Dunque appiattitele con una spatola per modellare la frittata. Quando una superficie sarà dorata, capovolgete la frittata. Cuocete per 7 minuti e buon appetito! Il vino consigliato in abbinamento è l'ortrugo dei Colli Piacentini DOC, da servire fresco. Questa era la ricetta di oggi, numero 21 di A tavola con Fabiola. Questa era Radio Big World e io sono Fabiola. Alla prossima!